siamo partiti prudenti, diciamo così, ma già poi della prima edizione, nel momento in cui abbiamo poi iniziato a organizzare, l'abbiamo realizzato, insomma, siamo riusciti ad avere tante date, che insomma è sinonimo ovviamente di quantità, ma anche di qualità, e quindi con relatori importanti, anche insomma di caratura nazionale, ma soprattutto veramente molto competenti. Quindi diciamo che quel piccolo ce lo portiamo dietro perché ci siamo affezionati, l'abbiamo messo tra parentesi, ma insomma diciamo che è sicuramente un festival quest'anno con 16 appuntamenti. E quindi insomma, sì, piccolo, piccolo certamente no. Quali sono i principali temi che affronterete quest'anno? Individuare insomma, i temi principali è complicato perché cerchiamo di spaziare un po' in tutto lo scibile umano, che vuol dire certamente molto ambizioso, ma è un po' la cifra del festival, proprio perché appunto il filo conduttore è la divulgazione, quindi lo strumento, non tanto diciamo il contenuto specifico. Certamente abbiamo dei relatori più conosciuti, quindi avremo Roberto Mercadini con cui parleremo, diciamo, lui è un filosofo, un divulgatore, ma parleremo di spazio, perché insomma cerchiamo anche di toccare quei temi che sono un pochino più d'attualità, quindi la colonizzazione dello spazio, parleremo di filosofia, di arte, di musica, parleremo di consumo del suolo e quindi parleremo di sostenibilità, parleremo per esempio anche del rapporto tra l'uomo e la natura, quindi avremo una conferenza sul tema dei lupi che insomma a livello locale, ma non solo, insomma sta creando appunto delle problematiche, quindi cerchiamo di toccare tanti temi, alcuni che sono magari più di stretta attualità o comunque che sono di un'ora delle cronache per episodi, perché comunque si è creato un dibattito, e altri invece che sono diciamo così più di un interesse astratto, come possono essere la storia, come possono essere appunto la filosofia, l'arte. Le location, come al solito, saranno dislocate. Sì, il festival nasce diciamo come nucleo centrale a San Giorgio di Piano, dove ci sarà la maggior parte degli eventi, però insomma come già fin dai primi anni aderiscono altri comuni dell'Unione Garnero-Gagliera, quindi un bacino di 8 comuni che si trova a nord di Bologna e diciamo quindi avremo eventi a Castelmaggiore, a San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Bentivoglio, Argelato, oltre che ovviamente dicevo San Giorgio. Lo scopo è quello poi di creare anche un qualcosa al di fuori diciamo delle mura di Bologna e di portare, cercare di portare un po' il pubblico a conoscere quello che succede in provincia, insomma. Tu prima dicevi divulgazione, ma anche dibattito, si è creato negli appuntamenti delle edizioni precedenti anche con il pubblico? Sì, ci sono state sicuramente alcune, c'è stata occasione anche di, come dire, scontrarsi con qualche negazionista o polemista. Per esempio, è successo quando abbiamo promosso 2 edizioni fa un incontro sul tema degli insetti come potenziale forma di cibo e di proteine per il futuro, dove ci siamo trovati, diciamo, un po' di contestatori convinti che volessimo obbligare le persone a mangiarsi i ragni vivi, poi fondamentalmente, insomma, con un'idea di quello che poi poteva essere, insomma, il tema di cui parlavamo abbastanza sballata. Quindi è proprio questo anche lo scopo del festival, no? Quindi di approfondire delle tematiche che sono importanti anche per il nostro futuro, anche per la sostenibilità del nostro sistema, cercare di dare gli strumenti per poterle conoscere meglio. Infatti quest'anno avremo tra le relatrici Beatrice Mautino, che è una bravissima divulgatrice e autrice di un podcast molto, molto importante che ci vuole una scienza, con la quale parleremo appunto del metodo scientifico rapportato alle fake news, rapportato a quelle che sono state negli anni tutte quelle tendenze che portano ad allontanarsi dal metodo scientifico, quindi dalle fake news, ma parlando anche di pseudoscienze, quindi tutte quelle conoscenze un po' pretese, conoscenze un po' esoteriche che spesso spostano l'asse, no, dell'attenzione verso soluzioni che non sono quelle ottimali. Piuttosto che l'astrologia, piuttosto che altre, non dico scienze, ma altre branche del sapere, insomma, con meno fondamento, anzi, che non hanno fondamento. La divulgazione, intesa anche come storytelling, è forse anche un modo più accattivante, no? Per fruire di informazioni e accumulare così anche conoscenze. Voi, appunto, in questo percorso avete coinvolto anche le scuole in questi anni? Sì, abbiamo cercato sempre di abbinare agli eventi, diciamo, serali o pomeridiani, quindi quelli per un pubblico eterogeneo, anche dei laboratori nelle scuole. Quest'anno porteremo laboratorio nelle scuole tramite Tecnoscienza, in cui parlerà di, diciamo, sostenibilità, architettura sostenibile, quindi di quello che si può fare anche singolarmente per appunto migliorare le prospettive del futuro del pianeta, ma avremo anche, e questo lo riproponiamo spesso perché l'autore Pier Domenico Memeo, astrofisico, è tra gli organizzatori del festival, un laboratorio sul, diciamo, sull'universo, quindi sulle conoscenze legate all'astronomia, all'astrofisica, per i ragazzi. entusiasti che preparano una serie di domande per il lettore e poi lui arriva e dà una serie di risposte ovviamente a quelle che sono curiosità che in questo periodo per i ragazzi sono le ragazze sono molto forti. E poi avremo, e questo completa un po' un percorso che abbiamo fatto in questi anni, porteremo nelle scuole un laboratorio legato al tema del colonialismo italiano e quindi al racconto di quelle che sono state le nostre malefatte in ambito coloniale. Gli appuntamenti sono all'ingresso gratuito, dove trovare il programma completo? Il programma completo lo trovate su festivaldivulgazione.it, sulle pagine Facebook e social vari della sede comune di San Giorgio, che dell'Unione Regno Galliera, che degli altri comuni che ospitano gli eventi, quindi insomma c'è tutto il modo di scoprire le date, gli orari, le location, che spesso sono anche location particolari, anche prestigiose, insomma abbiamo cercato anche di trovare dei luoghi che possono essere piacevoli da vivere per ascoltare le conferenze. E quindi niente, io non faccio altro che dare l'appuntamento a raggiungere in provincia, perché non c'è niente di male, si può venire senza passaporto e quindi vi aspettiamo.